Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. They told me about the strawberry fields, living in a mixtape and picking all the fruit that it yields. I made a tape so you could see it was real. I dug you a copy just so you could see how I feel. Something a lot stronger than coffee. Yeah, what do you suggest? Joey! Let's make some wake-up juice. Seconda parte di Eclettica, quella del venerdì, in compagnia di Giulio Caperdoni, seconda parte del volume numero 5 di questa settimana corta. Poi, come già vi ho detto, dalla prossima si riprenderà la tradizione, 5 giorni alla settimana fra le 19 e le 20, finito il periodo festivo. Creeping Weeds hanno aperto con I'm a Donkey for Your Love, questa seconda parte, seguiti poi da una cover dei Why da parte degli Shoo Shoo, brano intitolato Yo Yo Bye Bye. E invece un'assoluta novità quella che sto per farvi ascoltare, uno di quei brani che colpisce già al primo ascolto, non c'è bisogno di tempo, è subito un diretto che vi arriva in piena faccia, in piene orecchie direi, e da quelle poi non se ne va più. Uscirà come album ufficiale nel mese di febbraio 2008 su Permanent Records, una formazione di Chicago il cui nome è Cave. L'album si intitolerà Hunt Like Devil / Jams. E questa è proprio Hunt Like Devil. Ecco la persona che cercavo. Salve, persona. Non mi sente. Forse, se il futuro esistesse in modo concreto e individuale, come qualcosa che può essere percepito da un cervello superiore, il passato non sarebbe così seducente. Le sue esigenze risulterebbero controbilanciate da quelle del futuro. Le persone potrebbero allora stare a cavalcioni, sul punto centrale dell'asse, in bilico, mentre contemplano questo o quell'oggetto. Potrebbe essere divertente. Ma il futuro non possiede questa realtà, contrariamente al passato rivisto nel ricordo e al presente percepito. Il futuro non è che una figura retorica, un fantasma del pensiero. Questo era l'incipit di Cose trasparenti di Vladimir Nabokov. Be as sober as a priest on Sunday. 10 minutes. Why do we have to cut these things so damn close? Entangled in things, he's been squandering, and we don't. Sono tornati The Dodos in Eclettica e questo è un ritorno da 2 settimane fa, quando ve li ho passati per la prima volta, ve li ho fatti conoscere con questa Fools, formazione molto interessante da San Francisco, che ritornerà nelle playlist di Eclettica del futuro. Prima ancora era stata la volta, ancora Stati Uniti, di Kaku Kanu con Alaska Wolf Slay. Invece si chiude questa intera settimana di Eclettica con le atmosfere indolenti provenienti dalla Nuova Zelanda degli Shocking Pinks. Si tratta di I Want You Back, su cui Giulio Caperdoni vi saluta e vi ricorda l'indirizzo di mail giulio@radiorockfm.com, indirizzo da utilizzare non solo per scrivermi direttamente ma anche per iscrivervi alla lista nera nel caso vogliate ricevere la playlist nella vostra casella di posta settimana dopo settimana, come anche l'altro indirizzo di riferimento myspace.com/eclettica, oltre ovviamente al sito istituzionale www.radiorockfm.com. via con gli Shocking Pinks. Yeah. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 10, volume numero 5, indice, Woog Riots, Paolo Benvenu, The Main Drag, Hefner, The Pterodactyls, con Kimia Dawson, Creeping Weeds, Shoo Shoo, Cave, Kakukano, The Dodos, Shocking Pinks. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.